ti riferisci a una donna come fosse tu, siccome non lo è, questa dopo un po' non ha più nessun interesse nei tuoi confronti, perché si rende conto che tu ti rapporti con te stesso, non con lei. Potrebbe essere un altro. C'è un mio amico che era fantastico in questo. Era innamoratissimo di una donna, ne parlava come, poi c'è scritto anche un romanzo più lungo della Divina Commedia. Usciva con questa ragazza ed era talmente centrato sul suo mondo interno che gli parlava che questa poteva essere sostituita da una lampadina che sarebbe stato lo stesso. Quando poi una volta, siccome lui si lamentava sempre di questa ragazza, una volta uno di noi, dei miei amici, ci è andato a parlare con sta qua e ci ha spiegato l'enigma. Dice, ma sai, lui esce, ma esce con se stesso. Io potrei non esserci a un certo punto. Lui però diceva di amarla alla follia. Adesso lei è morta e lui è disperato. Non c'è mai stato insieme, cioè per un periodo piccolo, poi lei si è ritirata perché in effetti lui stava con se stesso, non è che stava con lei. E adesso lui non può più vivere perché lei non c'è. Allora io e un altro amico ci siamo dati questo compito di trovare una soluzione. Non c'era che una soluzione magica a questo punto. E gli abbiamo detto, guarda che lei non è che non c'è più, anzi ti è molto più vicino, perché tu sai che l'essere umano non è solo corpo, è anche spirito, mentre prima col corpo stavate lontani 30 km, adesso il suo spirito può essere sempre vicino a te. E dopo un po' lui ha cominciato a dire, effettivamente la sento vicina. Questo avevo detto. E lei comincia e si era serenato. Ed è successa una cosa incredibile, che io ho detto questo, un altro mio amico gli ha detto esattamente la stessa cosa, senza che noi ci fossimo sentiti. Quindi abbiamo avuto un impatto buono, insomma, è andata di fortuna. Quello è uno dei pochi casi in cui l'utilizzo della magia è buono, non c'era altro da fare. Adesso lui sta meglio.